specchio, il tuo riflesso ormai perso. Fra tutte le tue condanne, la peggiore è essere te stesso. Frantumi la realtà, frammenti che lacerano la carne. Riecheggiano le tue colpe in una pozza di lacrime e sangue. La valle dell'infamia per te troni corona. Corrompe l'incorruttibile, ma corruttibile la tua dimora. Fatto che fa da prova per questa corte dannata. Dalle tasche del colpevole esce un'innocenza pagata. Lame fuoriescono dalla bocca del killer. Uccidendo il futuro mi sento dentro la natura col killer. Consensi ammessi, gli assensi repressi. Decessi sono i risultati depressi. Effetti finali, espressi il mio male. Risultando un paio di punti in bocca, ma come vedi continuo a parlare. E a rinunciare al mio vizio carnale. Scogliarti vivo il mio sogno e non smetto di sognare. Su un diavolo, su una cosa si ottiene. Angeli chiusi in cielo e demoni senza catene. In un mondo dove non esiste Dio ci si confida santi decapitati. Con la speranza di uscire dal lager senza essere sfigurati. Una nuova primavera ha perso l'occasione di sbocciare i suoi petali. Si sono sciolti sotto al sole. Non vedo luce in questa miniera di incertezze. Solo oro e oro nero e l'estratto delle conseguenze di una politica sbagliata dettata dal burattino del male. Che con me despot diffonde nelle sue mura di finto benessere e sotto un terreno chiodato ti uccide con permesso e intanto viene lodato. Carnai seduti attorno a un tavolo d'oro, festeggiano la fine del mondo e l'aumentare del loro patrimonio. Il conio fa da preda, l'odio è l'emblema sotto cui cresciamo e moriamo seguendo un finto schema. Reme trema attorno ad una sfera di cristallo, non cade neve ma acido che ci sta consumando. Nuoto in compagnia dei miei pensieri più neri in un lago di menzioni ingorde che creano una nazione. La mia opinione fissa e resta impressa in testa è questa. Se non l'accetti male pure resta dentro e pensa ad una via di uscita da questo tunnel degli orrori, dove incorre la libertà e ritrovi solo quando muori. Ti invadono la testa di ideologie per i soli di inganno. Se l'esca per lo squalo il pasto che si stanno assaporando. Il macellaio di anime ha fatto la sua comparsa. Saccheggia tra questi corpi il barlume di speranza. Una pazzia, una razzia di libera espressione. Una razzia di pazzia che spesso fa da soluzione. Scavo la tua fossa e seppellisco il tuo nome. È semplice come chiudere questo ricordo che non ha valore. Valore, valore, valore. La tua fossa e seppellisco il tuo nome. È semplice come uccidere questo ricordo che non ha valore. Il macellaio è morto, il macellaio non è risorto. Il macellaio è dentro un fosso, il macellaio è morto. Il macellaio non ha tomba né un degno riposo. Il macellaio è morto, il macellaio è morto, è morto, è morto.